GR24, il sole 24 ore. Scontri in Egitto, muore un altro manifestante, il quarto, e il governo tunisino chiede l'arresto di Ben Ali e dei suoi familiari. Tremonti a Telefisco, faremo la riforma del secolo, e sul federalismo Casini annuncia il no del terzo polo al decreto. La ripresa globale è tornata vigorosa, fa sapere il Centro Studi Confindustria, ma l'Italia non tiene il passo. Giudici in camera di consiglio per il delitto di Via Poma, l'ex fidanzato Busco rischia l'ergastolo. Festival di Sanremo, forfè di Belen Canalis alla conferenza stampa. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, la protesta in Egitto e Tunisia. Partiamo dal Cairo, dove nella notte ci sono stati nuovi scontri fra forze dell'ordine e manifestanti, e poco fa si è avuta la notizia della quarta vittima. In diretta ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno a voi. Allora, quali sono le ultime notizie che ci puoi dare? Ma direi che la situazione è piuttosto tesa a Suez, dove ci sono in corso i funerali dei tre manifestanti uccisi ieri durante le manifestazioni di protesta. Qui si sono assemblati migliaia di persone, molti parenti delle vittime, delle tribù intorno, che insomma sono in rotta con il governo centrale. A Suez, ad Alessandria d'Egitto, in altri località del delta del Nilo oggi sono provviste altre manifestazioni, mentre è arrivata appunto la notizia della morte del quarto manifestante. Al Cairo, nel centro della città, ci sono ancora dei manifestanti riuniti, ma insomma la situazione sembra tornata sotto controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico. Non lo è assolutamente però dal punto di vista politico, perché si è aperta nel modo peggiore l'anno della successione a Mubarak. Staremo dunque a vedere. Questo accade in Egitto. Invece ci spostiamo in Tunisia, Alberto, perché anche qui nuovi scontri. Il governo tunisino ha chiesto questa mattina all'Interpol di arrestare l'ex presidente Ben Ali, la moglie e altri membri della famiglia. Dunque, quale può essere l'evoluzione a questo punto? Le accuse sono quelle che il clan Ben Ali e Trabesi, la moglie si chiama Laila Trabesi, si siano impossessati di aziende e beni di Stato e abbiano trasferito illegalmente capitali all'estero. Che cosa vuol dire questa mossa? È la mossa di un governo fragile, come ben sapete, quello del primo ministro Mohamed Ghannouchi, che cerca di mandare un segnale di rottura con il passato. Però è molto difficile che insomma anche queste misure possano essere viste forse la maggioranza dei tunisini sufficienti per mantenere in piedi un governo dove appunto il primo ministro è stato per 12 anni anche il primo ministro di Ben Ali. Assolutamente poco credibile. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. E nella notte italiana il discorso sullo stato dell'Unione del presidente americano Obama, il congelamento per 5 anni di una fetta della spesa pubblica, 1 milione di auto elettriche entro il 2015, investimenti massicci nell'innovazione, nell'istruzione, nell'energia pulita e nelle infrastrutture. Tutto questo nel discorso di Obama, e soprattutto uno sforzo collettivo per creare nuovi posti di lavoro. È la nuova sfida americana. We believe in the same dream that says this is a country where anything is possible. Noi crediamo nello stesso sogno che dice che questo è un paese dove tutto è possibile. Quel sogno grazie al quale io posso stare qui davanti a voi stasera. Quel sogno grazie al quale un bambino della classe operaia di Scranton può stare qui, seduto davanti a me. Quel sogno grazie al quale qualcuno che ha cominciato pulendo i pavimenti del bar di suo padre a Cincinnati può fare ora il portavoce della Casa Bianca, nella più grande nazione della Terra. E torneremo a parlare del discorso dell'Unione, sentiremo ancora la voce del presidente americano Obama in America 24, in onda come tutti i giorni alle 13.45. D'ora invece la pagina politica, a cominciare dal tema del federalismo. Stamattina le parole del ministro Tremonti durante l'iniziativa del Sole 24 Ore Telefisco. Le resistenze da parte dei comuni e di alcune forze politiche sul federalismo non sembrano preoccupare Giulio Tremonti. Il ministro dell'Economia, intervenuto alla 20ª edizione di Telefisco, è certo che il lavoro per rendere le tasse meno nazionali e più locali sia un cambiamento storico e insieme irreversibile, perché l'Italia è l'unico paese che non abbia di fatto finanza locale. Chi in questo momento mette in dubbio un testo che è depositato in Parlamento dal 5 agosto sembra avere intenti dettati dal clima politico. Il titolare di Via 20 Settembre rassicura poi sullo sblocco delle addizionali comunali. Il senso vero è che le addizionali non sono un obbligo, sono una facoltà e la scelta tra l'una e l'altra dipende dai cittadini. Altra riforma sulla quale si lavora è quella fiscale. Tremonti si dice convinto che anche questa avrà portata storica. Noi abbiamo l'ambizione di disegnare la prima riforma fiscale del nuovo secolo. E sarà l'Italia a farla. Infine, nell'intervista trasmessa nelle 60 sedi collegate con la manifestazione organizzata dal Sole 24 Ore, l'esperto risponde e si sofferma sui conti. Veniamo accusati, dice, di non aver fatto spesa pubblica. Ne abbiamo fatta moltissima in modo specifico, mirata, ad esempio, agli ammortizzatori sociali. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E in coda di questo GR24 torneremo a parlare di Telefisco, ma poco dopo le parole di Tremonti è arrivata da Roma la notizia che il Terzo Polo voterà contro il decreto sul fisco dei comuni. Lo ha annunciato il leader dell'UDC, Casini. Tanti comuni stanno chiudendo i battenti, sono la canna del gas. Bisogna trovare una strada straordinaria, momentanea, che privilegia i comuni virtuosi, ma questa è la strada che propone l'Unione dei Centri. Dopodiché, un'altra considerazione, il federalismo municipale così come viene approntato nei decreti attuativi rischia di dare il colpo finale a quella che è l'autonomia impositiva dei comuni e lo stesso federalismo. Ed oggi è il giorno della fiducia al ministro Bondi, Elisabetta Fiorito. Il governo alla prova dell'aula oggi a Montecitorio sulla sfiducia al ministro dei beni culturali Sandro Bondi. Probabile che la mozione dell'opposizione non passi, lo confessa anche il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, che dice, lo sanno anche i bambini dell'asilo, che Bondi avrà la maggioranza. Se la mozione, come è probabile, verrà respinta, dice Casini, è democrazia. Nel frattempo sembra rasserenarsi il clima all'interno della maggioranza. Nel punto fatto ieri sera nel vertice di Palazzo Grazioli, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è fiducioso che la bufera su Ruby passerà, il consenso c'è ancora, ma per evitare elezioni anticipate è necessario allargare la maggioranza. Resta duro il giudizio su Gianfranco Fini, che Berlusconi ritiene fautore di un complotto con i PM milanesi. Per il PDL il Terzo Polo sarebbe già in crisi e per Berlusconi, per Ferdinando Casini, si muoverebbe tatticamente solo per partecipare alle nomine nelle aziende pubbliche. PDL e Lega continuano poi a chiedere le dimissioni di Fini, ma Future Libertà continua a difendere il Presidente della Camera. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Il PDL vuole introdurre il reato di intercettazioni illegittime. Siete d'accordo? È quanto vi abbiamo chiesto nel nostro sondaggio di oggi. Il 42% di voi ha risposto di sì, il 58% ha risposto di no. La pagina della cronaca oggi, la sentenza della terza corte d'assise sul delitto di Via Poma, i giudici sono in camera di consiglio. Un imputato davanti ad un bivio e un mistero in attesa della sua prima sentenza. Via Poma, 21 anni dopo. Arriva a distanza di 2 decenni il primo verdetto di una corte sulla morte di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa il 7 agosto 1990 in quella strada romana diventata tristemente nota proprio per la sua morte. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'unico alla sbarra, Raniero Busco, l'ex fidanzato della giovane messo sotto accusa 4 anni fa perché a lui riconducevano gli esami del DNA sul corpetto e il reggiseno della vittima. L'ex biondino, ora stempiato e provato, si è sempre proclamato innocente e così aspetta la sentenza. Non è arrivato invece fino al giorno del primo verdetto un altro protagonista di questi 20 anni di mistero, Pietrino Vanacore, il custode del palazzo, l'uomo che trovò il corpo di Simonetta, il primo ad essere accusato e poi prosciolto. Pochi giorni prima della sua deposizione a marzo, Vanacore si è tolto la vita perché 20 anni di martirio, scrisse nel biglietto, portano al suicidio. Oggi dunque, dopo più di 2 decenni, è attesa la prima sentenza su una delle grandi storiacce italiane. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Nel modo di pensare c'è un gran divario. Mio padre è democratico cristiano e siccome è impiegato al Vaticano, tutte le sere recita il rosario. È morto stanotte al Policlinico Gemelli di Roma l'attore Mario Scaccia, 91 anni. State sentendo in sottofondo mentre recita una poesia di Trilussa. Artista fantasioso e versatile, ha lavorato in teatro e in TV. È stato molto presente anche in radio, dove ha partecipato a spettacoli leggeri e numerosi radiodrammi. Un treno delle Ferrovie Umbre è uscito da binari stamani, poco prima delle 8, nella zona di Castigliano di Acquasparta. Feriti in maniera non grave 6 passeggeri e una ventina i contusi. Il treno, formato da una sola carrozza, dopo essere uscito dai binari, è finito contro un palo. Le macchine più inquinanti sono ferme da ieri a Milano, ma la quantità di polveri sottili restano altissime. Se i livelli resteranno questi per altri 2 giorni, domenica ci sarà il blocco totale della circolazione. Firmato questa mattina a Palazzo Chigi un protocollo d'intesa per vietare pubblicità offensive, volgari e lesive della dignità femminile. Fautrice dell'accordo con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, che sul caso Ruby dice: non spetta a me dare un giudizio morale su comportamenti di cui non si ha certezza. Non possiamo non rispondere all'esigenza di porre un freno alla giungla a cui spesso siamo costretti ad assistere. Non possiamo non avere la possibilità di poter intervenire direttamente, velocemente, efficacemente quando ci troviamo di fronte a un messaggio palesemente sbagliato, pericoloso, volgare ed offensivo. Forfè inatteso di 2 donne che di pubblicità se ne intendono, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis, alla conferenza stampa di presentazione del cast del Festival di Sanremo. Marta Cagnola, cosa è successo? Era davvero inatteso questo forfè di Belen ed Elisabetta, perché oggi c'era la consueta conferenza stampa ufficiale di presentazione del festival, che partirà il 15 febbraio. Loro hanno deciso di non incontrare per ora la stampa al Casinò, ma è la prima volta nella storia del festival che il cast non è presente al completo alla conferenza stampa ufficiale. Ovviamente ci si chiede che si voglia alimentare il mistero e magari la polemica, che di solito a Sanremo porta bene agli ascolti. Beh, già qualche giorno fa erano trapelate le notizie secondo cui Elisabetta, che ha scelto di stabilirsi a Monte Carlo, ha disertato più di una prova, e solo Belen si era presentata alla puntata di Porta a Porta, nella quale la scorsa settimana Bruno Vespa ha dato la sua benedizione alla kermesse. Creare una leggenda di una rivalità tra donne, beh, può essere. Intanto filtrano i nomi di possibili super ospiti come Fiorello, Bellucci e De Niro, e un nuovo nome certo c'è: Morgan, che è ospite di Patti Pravo. Anche qui i titoli scandalistici non mancheranno, anche se, diciamo, superare quelli che arrivano dalle cronache giudiziarie sarà davvero difficile. Grazie. Sentiremo, Piera, sentiremo. Grazie a Marta Cagnola. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dei nuovi scontri in Egitto, dove è morto un altro manifestante, il quarto. E il governo tunisino, siamo dunque in Tunisia qui, chiede l'arresto intanto di Ben Ali e dei suoi familiari. Tremonti a Telefisco, faremo la riforma del secolo, e sul federalismo Casini annuncia il no del terzo polo al decreto. Giudici in camera di consiglio per il delitto di Via Poma, l'ex fidanzato Busco rischia l'ergastolo, e poi abbiamo parlato del Festival di Sanremo. Per il forfè di Belen e la Canalis alla conferenza stampa. E ripartiamo dalla pagina economica e dai dati del Centro Studi di Confindustria. L'analisi impietosa emerge dal report congiunturale del Centro Studi di Confindustria. Nel nostro paese la produzione industriale è rimasta invariata in dicembre, totalizzando un meno 0,3% nel quarto trimestre e restando a meno 17,8% rispetto ai livelli pre-crisi. L'Italia fatica ad andare oltre l'1% nella velocità del PIL, sottolinea l'organismo di Viale dell'Astronomia. E questo mentre a livello globale, dopo la buona performance di fine 2010, il 2011 si presenta come l'anno della stabilizzazione delle aspettative e della riduzione dell'incertezza. Gli investimenti, insomma, appaiono in pieno rilancio soprattutto negli Stati Uniti e in Germania. Più lenti altri paesi dell'Eurozona, anche perché sulla ripresa in molti casi pesano la crisi dei debiti pubblici, le oscillazioni valutarie e i rincari di materie prime ed energia. Le quotazioni record delle commodity, destinate a salire ancora, comprimono margini aziendali e potere d'acquisto delle famiglie, agendo da freno alla domanda, scrivono i tecnici di Confindustria. Per l'Italia il petrolio a $100 al barile si traduce in un taglio dello 0,3% sulla crescita del PIL nel 2011. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel sondaggio sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni realizzato dall'Istituto Piepoli emergono ai primi posti le forze dell'ordine con l'88% di fiducia, seguite dalla magistratura 61%, dalla Chiesa Cattolica 59% e dalla Confindustria 57%. In calo invece Parlamento e sindacati. Al microfono di Alessio Maurizi, Roberto Baldassarri dell'Istituto Piepoli. Come spesso accade in questi momenti un po' di crisi, alcune istituzioni diventano emblema e garanti del patto sociale. Tra queste, evidentemente, al primo posto ci sono le forze dell'ordine, dai vigili del fuoco all'esercito, alla polizia e ai carabinieri, e poi abbiamo la magistratura, di cui si discute tanto in questi giorni, e la Chiesa Cattolica. Seguono la Confindustria e la Banca d'Italia. All'ultimo posto troviamo i sindacati, anche loro nell'occhio del ciclone per le vicende connesse con la Fiat. Quindi sostanzialmente gli italiani hanno individuato alcuni cardini che in questo momento sono tutela e garanti dell'opinione pubblica. Guardando al passato, ci sono dei cambiamenti rispetto a sondaggi precedenti che avete fatto? Sostanzialmente le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura sono sempre nei primi posti. Scendono molto il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, quindi la parte più politica, e invece emergono delle realtà anche private, come nel caso della Confindustria, che in questo momento di crisi economica e di instabilità sembra essere uno scudo. Su Confindustria in particolare voi dite è legato all'andamento economico, cioè allo spavento per la crisi, in qualche modo ci si aggrappa a una speranza di ripresa legata un po' alla vivacità del mondo delle imprese, così potrebbe essere, sì, questa? Sostanzialmente possiamo dare una chiave di lettura in questa direzione, e anche nel fatto che non c'è più questa grande divisione tra il titolare dell'azienda e il lavoratore. L'opinione pubblica non la vive più così marcata. In questo senso la Confindustria riscuote fiducia sia dalla parte dei lavoratori che dalla parte delle imprese. Questo è un momento particolare in cui le persone non chiedono tanto, chiedono il lavoro e la stabilità. Accordo fra l'ABI e le 12 associazioni dei consumatori per la proroga della sospensione dei mutui per la casa per le famiglie in difficoltà. L'accordo, siglato nel dicembre del 2009, viene ora prorogato al 31 luglio prossimo. Finora le banche, il dato è a novembre scorso, hanno sospeso mutui a oltre 35.000 famiglie per complessivi 4,4 miliardi. L'accordo per la sospensione delle rate dei mutui ha permesso finora di dare in media 6.500 euro di liquidità in più alle famiglie per poter far fronte alla crisi. La sospensione delle rate riguarda i mutui fino a 150.000 euro per l'acquisto della prima casa, stipulati da famiglie con redditi fino a 40.000 euro, che hanno subito nel biennio 2009-2010 eventi particolarmente negativi, tra i quali la perdita dell'occupazione e l'ingresso in cassa integrazione. L'arco temporale degli eventi sfavorevoli è stato ora prorogato al 30 giugno prossimo e il termine per la presentazione delle domande è il 31 luglio. Gerardo Graziola da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Domani è il giorno della memoria. Molti gli studenti che in questi giorni stanno partendo per Auschwitz affinché vedano cosa è significata la Shoah. Niente viaggio ad Auschwitz invece per i ragazzi del liceo artistico di Brera a Milano. Ci spiega perché il presidente del consiglio d'istituto Nicola Licci. Perché c'è uno stato di agitazione non formalmente dichiarato, non abbiamo visto nessun documento, però i docenti con grande mancanza di sensibilità civile si sono opposti a questa cosa e io trovo intollerabile questa loro posizione. Perché non vogliono andare ad Auschwitz quest'anno? No, i docenti che l'hanno proposto vogliono andarci gratuitamente a spese loro, sono il resto dei docenti che impediscono loro di andare ad Auschwitz perché c'è uno stato di agitazione in quanto il ministero non paga più le trasferte ai docenti e quindi devono andarci a spese loro. I docenti, ribadisco, che hanno proposto il viaggio ad Auschwitz a due classi si sono offerti di farlo a proprie spese perché la cosa ovviamente ne vale la pena, e i docenti invece che sono stati eletti all'interno del consiglio d'istituto si sono opposti a questa cosa. Niente gite, niente trasferte, perché non arriva più una lira per gli insegnanti, certo, e certo. Quindi a questo punto neanche la gita anche d'Auschwitz. Anche la gita d'Auschwitz non si può fare. Israele allenerà i palestinesi per le Olimpiadi del 2012. L'accordo è stato siglato ieri a Losanna nella sede del Comitato Olimpico Internazionale. Mediatore dell'accordo Mario Pescante, vicepresidente del CIO. Sentiamolo al microfono di Dario Ricci. Devo dire che è stata una cosa sorprendente, non pensavo mai che l'accettassero i palestinesi, nel senso che io ho offerto, avendo consultato gli organi dell'Unione Europea, come nella mia veste politica, di ospitare nei paesi dell'Unione Europea, Germania, Francia, chi lo desiderava, l'Italia stessa, i pochi atleti palestinesi che andranno a Londra, che saranno pochi, 5, 6, non lo so, ecco, quelli permessi dal CIO, e invece qui c'è stata un'offerta di Israele di allenarli in Israele. Questo vuol dire che possono cominciare a allenarsi sin da adesso, e questo è stato accettato dai palestinesi. Segno che la diplomazia del CIO a volte arriva dove la politica... Ma guardi, abbiamo relazionato Ban Ki-moon di questo, era straordinariamente soddisfatto. Il tennis, eliminazione a sorpresa di Nadal agli Open d'Australia. Lo spagnolo numero uno al mondo è stato battuto ai quarti dal connazionale Ferrer in 3-7. In semifinale Ferrer incontrerà il britannico Andy Murray. Nell'altra semifinale si sfideranno Federer e Djokovic. Siamo al calcio con i quarti di Coppa Italia. Il Palermo, la prima semifinalista, e Rosanero hanno superato il Parma per 5-4 dopo i calci di rigore. Oggi menù ricco, alle 17.30 il Milan è a Marassi contro la Sampdoria. Cassano, ex d'eccellenza dopo il tumultuoso addio ai Doriani, partirà dalla panchina. Allegri è pronto a lanciare subito i suoi nuovi acquisti olandesi, Emanuelson e Van Bommel. In serata alle 21 in programma Napoli-Inter. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.